10Q10. Ho capito, ma però magari se vicino ti rimbomba un po', così andava meglio però come hai fatto l'ultimo passaggio. Allora, aspetta, io di solito lo usavo così, quasi al 3. Lasciarlo così che è più chiaro di prima. Capo. Vieni, re, vieni. E questo andava così. Adesso mi dà due di stazionarie.